Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia in questo primo marzo. 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, e poi c'è la pagina di Focus Economia su Facebook. Oggi sarete con me, domani torna Sebastiano Barisoni. Di che cosa parleremo oggi? Allora, ieri con Sebastiano Barisoni avete sentito, se ne è parlato con Mario Platero, di quelle che erano le attese per il primo discorso al congresso di Donald Trump. Ebbene, il primo discorso al congresso di Trump è stato un discorso più moderato nei toni di quanto non ci si potesse aspettare o di quanto non ci si aspettasse, ma certo sulla stessa linea, la linea che ha tenuto sempre, quindi in questo senso decisamente coerente per quanto riguarda quello che è il programma e quello che è il pensiero di Donald Trump, e quindi una tendenza abbastanza marcata verso il protezionismo, verso il voler riportare le produzioni che al momento sono fuori verso gli Stati Uniti. Un'attenzione particolare alla classe media, che poi è la classe media impoverita, che in fondo poi alla fine è quella che è la sua base elettorale. Di certo è sembrato voler aprire un nuovo scenario, quantomeno, come dicevamo, dal punto di vista dei toni. Vedremo quello che sarà dal punto di vista della sostanza politica, quello che poi sappiamo, appunto, tagli delle tasse, un'attenzione maggiore alle spese. Vedremo anche poi quanto sarà in grado effettivamente di realizzare il presidente americano. Comunque di questo parleremo appunto sempre con Mario Platero. Si parla di mercati internazionali, viene presentata come ogni anno una ricerca realizzata da American Express sulle piccole e medie imprese del mondo, una ricerca realizzata in 15 paesi su 3200 aziende. Ci siamo dentro noi, c'è dentro l'Italia naturalmente, ma ci sono anche gli Stati Uniti, ci sono paesi asiatici, e ci sono degli spunti interessanti che emergono da questa ricerca. Innanzitutto dal lato dell'ottimismo che dimostrano le imprese, e le imprese italiane, è un dato che ci ha colpito, sono tra le più ottimiste. Questo non vuol dire che siano in maggioranza ottimiste sul futuro e sui prossimi tre anni, ma sono più ottimiste rispetto ad altri. Una tendenza vedono gli amministratori delegati di queste aziende e gli uomini che guidano queste aziende, vedono prospettive positive per l'economia, e naturalmente un occhio per l'economia internazionale, e naturalmente un occhio che guarda soprattutto ai mercati esteri. Con dei fronti di preoccupazione, immaginiamo che arrivino esattamente da quelle che possono essere le politiche commerciali degli Stati Uniti, visto che lo abbiamo raccontato molto anche nei mesi scorsi e non solamente da questi microfoni, proprio agli Stati Uniti che si stava guardando come un mercato solido, un mercato di sbocco che resta molto importante per tutte le aziende, in particolare evidentemente per le aziende italiane. A proposito di mercati internazionali, parleremo di un calcio che si internazionalizza sempre di più, ma che subisce battute d'arresto, perché insomma della Roma sappiamo, dell'Inter sappiamo anche che il Palermo nei giorni scorsi è stato ceduto da Zamparini ad un fondo per 200 milioni di euro, mentre invece le vicende del Milan un po' di barzelletta, in tutta sincerità lo sanno, perché suonano un po' come una barzelletta, perché questo closing con i cinesi che dovrebbe arrivare e arriva, non arriva, e viene rinviato, e mancano 100 milioni di euro, vengono palesati degli investitori che poi spariscono. Insomma, è un po' curiosa tutta questa storia. Si attende in giornata, almeno si attendeva in giornata, un comunicato della Fininvest che facesse sapere qualcosa di più. Questo comunicato non è ancora arrivato, supponiamo che se dovesse arrivare oggi sarà evidentemente a borsa chiusa. Infine, ne ha già parlato in parte Oscar Giannino nella sua trasmissione, noi ci torneremo più avanti nel corso della trasmissione, la pubblicazione dei redditi IRPEF, ma soprattutto il tema di questi famosi 80 euro che debbono essere restituiti. Non mancherà l'appuntamento con i mercati. La giornata oggi è buona, più 2,28% per il FTSE MIB, più 2,11% per il FTSE All Share, mentre nel resto d'Europa più o meno le performance sono simili. Francoforte che guadagna l'1,91%, Parigi il 2,12%, Londra l'1,5%, Milano trainata oggi, ma poi più avanti ci arriveremo, soprattutto dalle banche, Ubibanca più 5,6%, Intesa San Paolo più 4,64%, Popolare Emilia Romagna più 4,36%, Popolare Milano BPM più 4,24%, ebbene anche Mediobanca più 3,5%, Unicredit più 3,4%, è positiva anche Eni oggi nel giorno della pubblicazione dei dati, più 3,10%, bene anche Moncler più 5,38%, mentre in fondo all'istino troviamo solamente Saipem che cede lo 0,35% e Recordati lo 0,27%, tutti gli altri titoli sull'istino principale sono positivi. 349-238-6666 come sempre è il numero, tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp, ve lo ricordo un'altra volta, le notizie in breve di oggi. Oh, lo dico subito e come sempre a chi scrive, non vi preoccupate, ve lo ridiamo Barisoni, Sebastiano torna domani, tranquilli, tranquilli, tranquilli, ogni tanto lasciategli prendere una giornata, no? Il petrolio, come sempre in apertura, WTI con consegna ad aprile, il petrolio quotato a New York in calo dello 0,11% a $53,9 al barile. Per quanto riguarda il Brent, consegna a maggio, siamo in lieve rialzo, più 0,12% a $56,5 al barile. Dice tra l'altro l'amministratore delegato dell'Eni Claudio De Scalzi, oggi come si diceva più che i dati è stato presentato il piano strategico 2017-2020, dopo due anni di bassi investimenti e di sfiducia nell'industria del petrolio a livello globale, ci aspettiamo un lento aumento dei prezzi fino a $70 al barile nel 2020. La stessa Eni chiude il 2016 con un risultato netto in perdita per 1,46 miliardi contro il rosso di 8,7 del 2015, con il risultato adjust sostanzialmente piatto a meno 340 milioni. Questo si riferisce in una nota del gruppo, ci torneremo poi più avanti quando faremo i mercati, ci faremo riferire anche più nel dettaglio i dati del bilancio di Eni dai colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Trump lo riassumiamo con un titolo perché poi ci arriviamo tra un attimo. Enorme taglio delle tasse, dice, via l'Obamacare, il sistema di assistenza sanitaria istituito dal suo predecessore, più mezzi all'esercito, con la stretta sugli immigrati contiamo di far salire i salari, ne parliamo tra poco. Tra l'altro il presidente della Federal Reserve di San Francisco, John Williams, dice che un rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed è sul tavolo per la riunione del 14 e 15 marzo e va preso in seria considerazione. Dobbiamo gradualmente rimuovere il piede dall'acceleratore per evitare un surriscaldamento dell'economia che sarebbe insostenibile, dice Williams. Da questa parte dell'oceano parla il commissario agli affari economici e monetari Pierre Moscovici, dice ci sono forze che vorrebbero smantellare l'Unione Europea, penso alle politiche americane e a quella russa e a forze interne che potremmo temere, come la Brexit. E poi parla dei conti italiani, spiega che la Commissione non chiede un aggiustamento di bilancio irrealistico, ma progressivo per il rispetto del patto di stabilità. E sempre sul fronte europeo ci sono i dati dalla Germania, i dati sull'inflazione, inflazione che sfonda la soglia del 2% per la prima volta dal 2012, l'indice dei prezzi al consumo è salito appunto al 2,2, ad un più 2,2 su base annua dal più 1,9 di gennaio, una lettura preliminare che supera le previsioni degli analisti. Su base mensile si è registrata una crescita dello 0,7% contro il più 0,6 atteso dal mercato. Parla su questo il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, che dice: per la Germania è prevedibile una revisione al rialzo di circa mezzo punto percentuale per quanto riguarda l'inflazione, e potrebbe essere così anche per la zona euro. È importante l'inflazione, come sapete, come ormai vi ripetiamo da anni, quasi stancamente, perché è l'obiettivo centrale da statuto della Banca Centrale Europea. Obiettivo centrale è mantenere l'inflazione vicina al 2%, poco sopra o poco sotto o perfettamente in pari. Sempre dall'Europa abbiamo segnali positivi per l'attività manifatturiera dell'Eurozona, l'indice PMI che si mantiene sui massimi da circa 6 anni, l'indicatore è salito a 55,4 punti da 55,2 di gennaio secondo la lettura finale. E lo stesso segnale arriva dall'Italia, dove in febbraio questo indice segna 55 punti contro i 53 di gennaio. Oh, tra l'altro, a chi ci dice che è solo l'inflazione tedesca che sta risalendo? Guardi che si sbaglia di grosso, perché i segnali stanno arrivando un po' da tutta Europa, poi sono dovuti a singoli aspetti, a singoli rialzi, per esempio l'energia per l'inflazione core è diversa. In Italia c'è stato un forte rialzo degli alimentari e lo abbiamo raccontato ieri, però i segnali ci sono da tutta Europa. Se non erro, l'ultimo dato di Eurostat era un più 1,8% per l'Eurozona, quindi là siamo più o meno. E detto ciò, c'è da segnalare che lo stesso Weidmann su questo non è che abbia puntato molto l'attenzione. Ci saremmo aspettati da uno come Weidmann, che eravamo abituati a considerare un falco, che dicesse immediatamente: no, a questo punto la BCE deve rialzare i tassi per riportare l'inflazione sotto controllo. Invece ancora non lo ha fatto, e anzi le ultime dichiarazioni di Weidmann delle ultime settimane sembrano che stia virando un po' verso la colomba più che verso il falco. Speriamo che così si mantenga. I dati italiani sono quelli sul prodotto interno lordo, confermato nel 2016 una crescita dello 0,9%, un PIL risalito in volume appena al di sopra del livello registrato nel 2000. Un dato sul rapporto tra deficit e PIL in linea con quelle che sono le stime del governo, un 2,4% a fronte del 2,7% del 2015. E un rapporto tra debito e prodotto interno lordo in crescita nel 2016 al 132,6% del PIL rispetto al 132% del 2015. Calo la pressione fiscale, secondo l'Istat al 42,9% nel 2016 contro il 43,3% dell'anno precedente. Parla il ministro Padoan, che dice: c'è una crescita ancora lenta, servono più riforme, non è facile crescere e aggiustare i conti, ma otteniamo risultati, dice Padoan. Certo, se questo è vero sul deficit, dai dati che abbiamo visto sul debito pubblico, questo ancora non è vero da quel lato, dal lato del debito pubblico. L'impegno sul calo del deficit di chi c'è ancora Padoan dà credibilità all'Italia. Resta in campo il tema dei voucher, perché come sapete è in arrivo un referendum su questo. Oggi parla il ministro del lavoro Giuliano Poletti, dice: penso che la norma sui voucher vada modificata, che ne vada drasticamente limitato l'uso. Penso che vadano usati dalle famiglie per piccoli lavori e non dalle imprese che hanno i contratti di lavoro. A questo sono dedicati i 100 secondi di Radio 24 e il Sole 24 Ore, che vanno in onda anche su RDS, come sapete, oggi a cura del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24 e il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il governo è pronto a mettere mano alla questione dei voucher, i buoni lavoro utilizzati per retribuire le piccole attività di tipo occasionale. La novità di oggi è che il governo sembra addirittura intenzionato a farlo in modo radicale, cioè escludendo dall'utilizzo dei voucher le imprese che hanno a disposizione altre tipologie di contratti di lavoro e consentendo l'utilizzo dei buoni alle sole famiglie per pagare ad esempio i collaboratori familiari o le babysitter, con il tetto annuale di 7.000 euro per lavoratore. È stato il ministro del lavoro Giuliano Poletti a illustrare la posizione del governo. Poletti non solo ha ribadito che i voucher vanno cambiati, ma ha detto che appunto ne va drasticamente limitato l'uso. L'obiettivo del governo è ovviamente quello di evitare il referendum abrogativo dei buoni lavoro, referendum che a gennaio ha avuto il via libera della Corte Costituzionale, che si dovrebbe svolgere nei prossimi mesi. La data in realtà ancora non la conosciamo. Nei giorni scorsi erano circolate alcune ipotesi di correzioni, per esempio limitando i settori nei quali utilizzare i buoni lavoro o l'abbassamento dei limiti di utilizzo sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro. La proposta emersa oggi rappresenta però una svolta che tutto sommato non appare così distante dall'obiettivo di chi aveva proposto il referendum, che poi è proprio quello di limitare il più possibile l'uso dei voucher lavoro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Pour me a taste of something good. Ed eccoci al primo tema di giornata, che è quello di Donald Trump, il discorso di Donald Trump davanti al Congresso, che ha descritto Trump la sua agenda e ha chiesto ai democratici e repubblicani di unire le forze per il bene del paese e del popolo americano. Vuole Trump l'abrogazione e la sostituzione di una riforma sanitaria che secondo lui è un disastro, la cosiddetta Obamacare, il lancio di un piano infrastrutturale da 1.000 miliardi di dollari, la riforma dell'immigrazione perché si basi su un sistema meritocratico, così dice, l'aumento della spesa militare e l'approvazione di un budget federale che da qui alla sua forma finale verrà pesantemente riscritto per accontentare, immaginiamo, più o meno tutti. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Mario, ci sei? Eccoci. Eccoci qui. Allora, iniziamo così. Diciamo così, gli ascoltatori affezionati, quelli che sentono anche Effetto Giorno e quindi poi sentono America 24, no, hanno ascoltato oggi una cosa particolare. Vediamo se poi riusciamo a farla riascoltare anche ai nostri ascoltatori. una canzone particolare, ma tra poco ci arriveremo. Intanto ti dico che sono arrivati un sacco di complimenti durante Effetto Giorno per questa cosa qua. Però poi ne parliamo. Certo, sei contento? Certo. Poi ci arriviamo. Però intanto parliamo di Trump. Va, certo. Iniziamo ascoltando qualche passaggio del suo intervento. Iniziamo da questa, che è una parte, se vogliamo, anche introduttiva per certi versi. Via. I am here tonight to deliver a message of unity and strength, and it is a message deeply delivered from my heart. Sono qui stasera per consegnare un messaggio di unità e di forza, e questo messaggio viene dal profondo del mio cuore. Tutte le nazioni del mondo, amiche o nemiche, si renderanno conto che l'America è forte, l'America è orgogliosa, l'America è libera, Abbiamo speso migliaia e migliaia di miliardi di dollari all'estero mentre le nostre infrastrutture si sbriciolano. Nel 2016 la terra si è spostata sotto i nostri piedi. La ribellione è iniziata come una protesta sottovoce da parte di famiglie di ogni colore e credo. Famiglie che volevano solo una possibilità per i loro figli e che venissero ascoltate le loro preoccupazioni. In seguito il coro è diventato un terremoto e le persone sono diventate decine di milioni, tutte unite da una semplice ma cruciale richiesta: che l'America metta i suoi cittadini al primo posto, perché solo allora possiamo rendere l'America grande di nuovo. Can we truly make America great again? E a chiudere dunque con il suo slogan, no? Lo slogan che alla fine Mario l'ha portato alla vittoria. Iniziamo dalle parti, quelle che almeno Trump ritiene un po' più concrete, no? Inizierei con te da forse questo, va, vediamo se riusciamo a sentire anche questo, l'applicazione delle leggi sull'immigrazione e l'impatto che Trump è convinto che portino queste leggi. Vediamo di sentirlo. I'm going to bring back millions of jobs. Protecting our workers also means reforming our system. Riporterò indietro milioni di posti di lavoro. Proteggere i nostri lavoratori significa anche riformare il sistema dell'immigrazione. L'attuale sistema è superato, abbassa i salari per i lavoratori più poveri e mette sotto pressione i contribuenti. È un principio di base quello che coloro che cercano di entrare in un paese devono essere in grado di sostenersi finanziariamente. Eppure, in America, non applichiamo severamente questa regola, forzando eccessivamente le risorse pubbliche su cui fanno affidamento i cittadini più poveri. Il nostro attuale sistema di immigrazione costa ai contribuenti americani molti miliardi di dollari all'anno. Lasciando questo sistema che porta persone con bassa preparazione e adottando invece un sistema basato sul merito, avremo moltissimi vantaggi. Si alzeranno i salari e le famiglie più bisognose, incluse quelle di immigrati, entreranno a far parte della classe media più velocemente e saranno molto, molto felici, senza dubbio. Penso che una riforma ambiziosa e positiva dell'immigrazione sia possibile se ci concentriamo su questi obiettivi: migliorare il lavoro e alzare i salari per gli americani, rafforzare il nostro sistema di sicurezza nazionale e riportare il rispetto per le nostre leggi. And to restore respect for our laws. Allora, Mario Platero, inizierei da qua proprio per questo, perché molto presidenziale nei toni Trump, no? Quasi inaspettatamente, visto come lo abbiamo visto agire tanto in campagna elettorale quanto in questa prima fase da presidente. Ma poi, alla fine, la sostanza è quella, insomma, è coerente con se stesso. È coerente con se stesso, però attenzione, perché l'aspetto del tono non è secondario, anzi direi che è forse il più importante, perché abbiamo visto per la prima volta un Trump che cerca di essere statista e non concorrente elettorale, non antagonista del sistema, non antagonista di tutti, dei media, dei democratici, del corporate world, insomma. È un Trump che in qualche modo ha improvvisamente cambiato marcia. Allora, da una parte questo ha colpito molto, ha colpito anche il mercato, perché ci si è resi conto che forse c'è il voto più costruttivo, più da abbraccio delle istituzioni da parte di Trump. Ma quello che tu dici è giustissimo, perché la sostanza del messaggio non cambia. Nel senso che lui ha fatto delle promesse e quelle promesse le mantiene, poi parla di immigrazione, del fatto che vuole limitare l'immigrazione, del fatto che vuole proteggere l'economia americana, che probabilmente metterà delle tariffe e così via, però l'aspetto essenziale resta quello del tono. Perché? Ti faccio un esempio: quando Trump dice voglio espellere milioni di immigrati illegali eccetera, è un tono che spaventa, perché è un tono minaccioso. Però sappiamo che sia Bush che Obama, anche loro hanno espulso milioni di immigrati illegali durante la loro presidenza, però lo hanno fatto senza fanfare, senza montarci tutto questo cinema sopra. Dall'altra parte spaventi di meno se dici, come nel file che abbiamo sentito, faremo una riforma dell'immigrazione, questa riforma dell'immigrazione sarà una riforma positiva e della quale beneficeranno tutti, e quindi appunto, come si diceva, i toni contano anche per creare consenso intorno a determinate proposte, non solamente tra la popolazione ma anche evidentemente in Parlamento. Sull'immigrazione, Mario, ti dobbiamo andare un attimo in pausa, ti riprendo subito dopo e torniamo a parlare di Trump e magari anche del tema del taglio delle tasse, che anche quello è parecchio interessante. Focus Economia. Pour me a taste of something good. To accomplish our goals at home and abroad, we must restart the engine of the American economy. Per raggiungere i nostri obiettivi in casa e all'estero, dobbiamo riaccendere il motore dell'economia americana, rendendo più facile per le imprese fare affari negli Stati Uniti e molto, molto più difficile per le aziende lasciare il nostro paese. Attualmente le nostre aziende sono tassate con una delle più alte aliquote al mondo. La mia squadra di esperti economici sta sviluppando una riforma storica del fisco che ridurrà le aliquote per le nostre aziende in modo tale che possano competere e crescere ovunque. Si tratta di un taglio davvero notevole. Allo stesso tempo garantiremo una pressione fiscale decisamente più bassa per la classe media. Oggi, quando spediamo i nostri prodotti fuori dall'America, molti paesi ci fanno pagare tasse e tariffe molto alte. Ma quando le aziende straniere spediscono i loro prodotti in America, non gli facciamo pagare niente, o quasi niente. But when foreign companies ship their products into America, we charge them nothing or almost nothing. E questa, Mario Platero, mi sembra forse la parte più importante, la parte core, diremmo, del programma economico di Trump e forse anche la parte più divisiva, soprattutto dal lato dei dazi e del protezionismo, no? Sì, e diciamo, il tono, di nuovo, come abbiamo sentito, è un tono così più ragionevole, cioè espone un problema che è un problema reale. È vero che l'America è più aperta ed è più penalizzata quando invece deve esportare. E dunque questo in effetti è un problema, ma una cosa è riequilibrare certi scompensi tariffari e perseguire questo obiettivo attraverso le istituzioni preposte come la World Trade Organization, un'altra cosa è agire in modo unilaterale scardinando il sistema dei commerci mondiali. Non credo che Trump abbia ancora deciso quale strada prendere, ascoltandolo ieri sembrava essere più la strada, diciamo, della prudenza, la strada del dialogo, la strada dell'intervento multilaterale, ma sul piano economico indubbiamente dare un colpo ai commerci sarebbe un problema per tutti, soprattutto per l'America, per cui io credo che alla fine, dietro questa retorica aggressiva con la quale poi diceva delle cose che facevano anche gli altri, ti faccio un esempio per la NATO. Lui diceva basta con la NATO, questi devono pagare, se no noi non interverremo. Era questo tono molto aggressivo, ma questo 2% che la sua amministrazione chiede agli alleati di pagare era stato deciso da Barack Obama, imposto dagli Stati Uniti durante il vertice NATO del 2014 in Galles. Ecco, è questo che oggi è cambiato, il tono di Trump. Però e che può Trump essere anche, può essere anche, perdonami Mario, può anche essere semplicemente una tattica di negoziazione, cioè uno la spara alta per poi arrivare a un risultato che magari è inferiore rispetto a quello preventivato inizialmente, ma è comunque un risultato soddisfacente. Sicuramente può essere una tattica di negoziazione, però c'è anche un aspetto camaleontico, cioè Trump improvvisamente cambia senza avvertire magari i suoi consiglieri e cambia in continuazione. Dunque ieri l'America politica si è interrogata: questo è un Trump statista, ma potremo davvero lavorare con lui così oppure cambierà di nuovo? Ti racconto una storiella che è successa ieri. Ha avuto un incontro con gli anchorman delle stazioni televisive americane, quindi diciamo quelli che i direttori, diciamo, dei giornali radio alla Casa Bianca, e a un certo punto ha detto: ma sapete che cosa vi dico? Io sto pensando di introdurre nel contesto della legge per l'immigrazione l'idea della naturalizzazione, che è un progetto di insieme, cioè alcuni li espelliamo, altri che sono stati qui da molti anni magari troviamo il modo per naturalizzarli. Ecco, e questa è una strada che avevano seguito Bush, che avevano seguito Obama, e non è arrivata da nessuna parte. E poi ha detto, rivolgendosi ai suoi aiuti, magari potremmo anche metterla nel discorso di stasera. E questi gli sono venuti i capelli bianchi, perché capisci, certo. Non è previsto, sono andati da Bannon, che è l'anima nera dell'amministrazione, poi alla fine Obama non l'ha messo, ma ha rivelato Trump, di avere Trump, un'idea, capisci? Sì. Scusami, Trump, sì, no, prego, ormai... prego, capisco, Trump, dopo otto anni, dopo otto anni comunque uno... Esatto, alla fine non l'ha messo, però si vede che è un presidente un po' umorale, e dunque ci si chiede, si è apprezzato l'intervento di ieri moltissimo, il mercato l'ha apprezzato, siamo a quota 21.000 perché si è capito che delle cose possono avvenire, non solo sul commercio, investimenti strutturali, riduzione delle tasse. Ma anche il taglio delle tasse, certamente, esatto, ma anche come ci dicevi, appunto, il tono. Dopodiché ci si interroga, ma resterà così oppure cambierà di nuovo? O ritornerà come era prima. Allora, Mario, nel salutarti, chiedo a Filippo Aureggi di salutarti in musica. Questo, di quello, chi se ne frega di te, del brutto, del bello. Allora, musica e parole di Mario Platero, andata oggi in onda ad America 24. Andate a scaricarvi il podcast e là ve la potete risentire. Mario, grazie anche per grazie oggi. Grazie a voi, grazie a te, un abbraccio. Grazie, ciao Mario. Allora... alla prossima cena, di quello che hai dato e non ne valeva la pena. Il traffico. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo per parlare di mercati. Un'ottima, ottima giornata. Più 2,39% il FTSE MIB, più 2,2% il FTSE All Share. Parigi che guadagna il 2,10%, Francoforte l'1,97%, Londra l'1,6%. Andrea Fontana, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Ciao, buonasera. E a cosa dobbiamo questa euforia? Beh, in parte sicuramente non tanto ai contenuti dei messaggi che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fornito ieri al Congresso, quanto ai toni un po' più concilianti, meno drammatici, meno drastici, quindi che e più improntati all'ottimismo, che sono stati apprezzati dai mercati, in parte sicuramente anche alla attesa per quella che sarà la protagonista della seconda parte della settimana, ovvero la Federal Reserve, che questa sera già pubblicherà il suo beige book sull'andamento dell'economia, sì. E che venerdì avrà l'intervento a Chicago della Presidente Yellen, con un'attesa su rialzo dei tassi di interesse già nel mese di marzo, sì. Che si è alzata su cui si è alzata la scommessa. Sì, mi sono dimenticato colpevolmente di darvi l'andamento degli indici americani. Come già si diceva in apertura, sono positivi. Dow Jones che guadagna l'1,24%, Standard & Poor's 500 l'1,23%, quindi attesa per la Fed, Trump, come dire, molta attenzione sugli Stati Uniti, poi ci sono le questioni nostre. Oggi mi sembra listino trainato dalle banche, no? Sì, assolutamente, il settore bancario molto buono, diciamo, le indicazioni che arrivano sui dati dell'inflazione, in generale le mosse delle banche centrali, a partire insomma dalla banca centrale di riferimento americana, la Federal Reserve, sul rialzo del costo del denaro, chiaramente portano a delle indicazioni che sarebbero favorevoli per il settore bancario, che è stato positivo in tutta Europa, più 3% l'indice dei bancari europei. In Italia molto bene UBI, Unicredit e Intesa San Paolo, ma anche le ex popolari come Banco BPM, Biper e Mediobanca. Questo per quanto riguarda le banche. Abbiamo anche Eni, che va bene, più 3,31%, oggi ha presentato il piano strategico, no? Sì, innanzitutto ha dato dei risultati 2016, soprattutto sul quarto trimestre, che sono piaciuti, hanno confermato i dividendi a 0,80 euro per azione, c'è stata una riduzione del debito e poi appunto l'indicazione del piano strategico, con anche la possibilità annunciata da Descalzi di separare l'attività di distribuzione del gas, l'attività Gas and Power, che sono state, diciamo, le principali indicazioni che sono arrivate da Londra, con Descalzi che ha anche cercato di rassicurare sulla sua permanenza alla guida del gruppo. E questo per quanto riguarda Eni. Vedo molto bene anche Moncler oggi, più 5-6%, ci sono motivi particolari? Beh, sicuramente i risultati diffusi ieri sono stati hanno mostrato un rialzo significativo, vicino a 200 milioni di euro per l'utile netto, con il fatturato che è salito oltre il miliardo di euro nel 2016, quindi con un rialzo del 18%, e poi appunto l'annuncio della distribuzione di complessivi 45 milioni di dividendi agli azionisti, in una giornata in cui peraltro anche altri gruppi della moda si sono mossi abbastanza bene, non così come Moncler, che è stata la migliore a Milano con più 5,6%, come ricordavi tu. Allora, bene Leonardo, ex Finmeccanica, più 3,47%, qua immagino che pesino veramente le parole di Trump sulla questione degli investimenti in difesa, nella difesa delle prospettive di investimenti nella difesa degli Stati Uniti, e poi le notizie che Leonardo è intenzionato a mantenere il controllo di DRS, ma con il 51%, non più al 100%, l'ha detto l'amministratore delegato Mauro Moretti. Infine Mediaset. Per quanto riguarda Mediaset è stata una giornata che è iniziata molto molto male, cioè mentre l'istino guadagnava l'1,5%, Mediaset perdeva l'1% e alla fine ha chiuso tra i peggiori con un rialzo molto limitato, più 0,3%, qui pesano le indiscrezioni sulla possibilità di raggiungere un cosiddetto armistizio, un accordo per risolvere la questione Vivendi, un accordo che secondo le indiscrezioni passerebbe da uno scambio azionario che coinvolgerebbe anche Telecom, ma che soprattutto non passerebbe, e questo temono gli operatori, per un'offerta pubblica su Mediaset sul mercato, e addirittura si parla di una Vivendi che potrebbe ridurre la propria quota, attualmente vicino al 30%, per portarla sotto il 10%, collocando un pacchetto presso investitori istituzionali. Questo provocherebbe, se fosse realizzato questo progetto, chiaramente una depressione del titolo, aspettandosi molta carta in arrivo sul mercato e quindi mettendo in soffitta l'ipotesi di un OPA sulla società, e per quello gli investitori sono stati molto cauti sul titolo oggi. E grazie ad Andrea Fontana, Radio Corri, Il Sole 24 Ore. Buonasera, noi cambiamo argomento dopo aver parlato dei mercati e ci occupiamo invece del mercato, dei mercati delle piccole e medie imprese. Qualche ascoltatore ci scrive: da quello che ho capito dal discorso di Trump, per noi europei economicamente parlando non è un bel discorso, ci scrive Andrea da Verona al 349-238-6666 via WhatsApp. Sì, a nostro giudizio, a mio personalissimo giudizio, sì, il segnale non è positivo, cioè se ha intenzione di mettere delle barriere tariffarie, doganali o anche semplicemente legislative, per noi questo rappresenta un problema oggettivamente. Vedremo come tutto questo si esplicherà. Ogni anno American Express realizza una ricerca sulle piccole e medie imprese, una ricerca estesa a 15 paesi del mondo, che riguarda 3.200 tra responsabili, amministratori delegati, presidenti, comunque manager di queste piccole e medie imprese, per cercare di dare un po' un'idea di quello che sta succedendo, quali sono le loro prospettive per il futuro, cosa si attendono dal lato per esempio dell'internazionalizzazione. Carlo Liotti, vicepresidente e direttore generale della divisione pagamenti commerciali di American Express, buonasera. Buonasera a lei. Allora, i segnali che arrivano sono complessivamente di un quello che definiremmo un cauto ottimismo con una frase fatta. Le vorrei chiedere questo, visto che veniamo proprio dalle cronache del discorso del presidente americano Donald Trump, se ci sono segnali dalle piccole e medie imprese, in particolare da quelle italiane, di come dire, preoccupazione per un rischio politico di questo tipo, ossia che l'internazionalizzazione alla quale aspirano molte imprese, perché il denaro lo vedono là, visto come è andato il mercato italiano fino ad oggi, vedono qualche preoccupazione di questo tipo, una preoccupazione da chiusura dei mercati, per così dire. Ma diciamo anzitutto che come diceva lei, c'è un sistematico moderato ottimismo, quindi aggiungerei l'aggettivo sistematico al moderato ottimismo, che vuol dire in un clima di maggior stabilità politica, interrotto forse recentemente dalle vicende che tutti conosciamo, aiutano le aziende a programmare meglio la propria capacità di investimento, che è quella che è mancata negli ultimi anni e che noi rileviamo essere ripresa come area di interesse delle imprese, quindi investimenti, ricerca e sviluppo. Il fatto che vi siano mercati come il mercato americano che possono, però forse verso un'offerta manifatturiera che per le piccole e medie imprese è sempre un'offerta premium, che quindi ha sbocchi di mercato su domande più qualificate, su cui qualunque attività di barriera all'importazione verrebbe comunque scontata dal valore dell'offerta, è meno risentita. Certo, certo. L'altro elemento importante è che le nostre aziende hanno in questi anni di crisi avuto una capacità di aprire dei corridoi commerciali, non a caso abbiamo un presidente che ha parlato di Via della Seta, non ha parlato in via occasionale, verso mercati nuovi che si stanno aprendo, penso al mercato del sud asiatico nuovo, la Corea, il Vietnam, l'Indonesia, la Malesia, la Thailandia, che sono tutti mercati che erano non nel radar delle piccole e medie imprese e oggi lo sono sistematicamente, noi lo vediamo dal flusso dei pagamenti. E quindi segnali positivi anche da quel lato evidentemente ce ne sono, del resto veniamo da un periodo di crisi molto profondo. È anche normale, no, che a un certo punto le aziende, le piccole e medie imprese iniziano a guardare un po' più al futuro con un filo di ottimismo maggiore, insomma. Allora, Liotti, io ho ancora un paio di domande per lei, riguardano soprattutto quelli che sono i fronti un po' più problematici, a partire dal problema del finanziamento delle piccole e medie imprese che faticano ancora, emerge dalla vostra indagine, e però la devo rimandare a dopo. C'è una pausa, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, torniamo su questo e poi parleremo anche del famoso closing, non closing del Milan. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatori, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, di nuovo buonasera da Simone Spezia in questa seconda parte di Focus Economia, oggi con me e domani con il ritorno di Sebastiano Barisoni. Adesso andiamo a chiudere il capitolo che stiamo dedicando alle piccole e medie imprese, a questa indagine realizzata da American Express su 3200 manager in 15 paesi del mondo. Poi ci occuperemo del Milan, di questo closing che non arriva e che sta diventando un po' una barzelletta, e infine andremo sul bonus da 80 euro che alcuni italiani sono trovati a dover restituire. Per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, la chiusura di giornata è ampiamente positiva sui mercati, FTSE MIB più 2,39%, FTSE All Share più 2,26%, Londra che guadagna l'1,64%, come avete sentito tocca dei record, Parigi più 2,10%, Francoforte più 1,97%, molto bene anche l'America più 1,40%, il Dow Jones più 1,40%, anche lo Standard & Poor's 500. Allora, piccole e medie imprese, si diceva, piccole e medie imprese che, come dicevamo prima della pausa, vivono una fase di relativo ottimismo, sistematico ottimismo, per quanto appunto cauto e moderato, come ci diceva Carlo Liotti, vicepresidente e direttore generale della divisione pagamenti commerciali di American Express, che è ancora in linea con noi. Piccole e medie imprese che però, come dire, faticano a trovare finanziamenti, e qua in qualche modo, Liotti, rientra in gioco quello che è il tipico e solito problema delle imprese italiane, cioè forse l'eccessiva dipendenza da un credito bancario che è comunque, nonostante la manica larga della Banca Centrale Europea, in questo momento rarefatto per gli ovvi problemi delle banche italiane, no? Assolutamente sì. Tenga conto che ancora ad oggi i nostri intervistati dichiarano per più del 50% l'utilizzo del capitale proprio, quindi problematiche anche nell'autofinanziamento dovuto alla non corretta gestione del capitale circolante. C'è da dire, l'elemento di novità è un maggiore elemento di insoddisfazione rispetto alle fonti di finanziamento tradizionale, guidato da due elementi: il fatto che si affacciano in termini di offerta di credito commerciale nuove realtà, il fenomeno delle fintech in Italia, dalla nostra analisi interna, ha fatto 100 le nuove iniziative imprenditoriali in questo mondo, il 70% sono rivolte al credito commerciale nelle varie forme, dal crowdfunding al peer-to-peer lending, all'invoice discounting, al supply chain financing e quant'altro, e d'altra parte la necessità poi di gestire meglio i pagamenti per finanziare una politica di queste piccole imprese espansiva, sia per supportare maggiori cicli di esportazione, sia, come dicevo, maggiori investimenti in ricerca e sviluppo. Quindi mi sembra che quello che ci sta dicendo è che, da questo punto di vista, le aziende si stiano, lo mettiamo tra virgolette, svegliando, cioè l'idea è che comprendano sempre di più che non è più possibile gestire il credito, le forme di finanziamento come si faceva prima, cioè quell'epoca è passata. Assolutamente sì, ma credo che non racconto nulla di nuovo dicendo che c'è un'offerta tradizionale che ha perso di una certa credibilità, molto concentrata a risanare la politica del credito, e due, il fatto che c'è una minor vischiosità nelle nuove iniziative fintech, nelle modalità con cui si fa risk assessment. Noi investiamo tantissimo della nostra capacità di investimento in ricerca e sviluppo, essendo un'azienda che si occupa di finanziamento a breve termine, nell'investire in modelli di risk scoring che tengano conto anche di un mutato panorama, soprattutto parlando di piccole e medie imprese, di gestione del rischio di credito. Infine, l'ultima domanda che le voglio fare riguarda proprio il tema delle esportazioni. Ci sono molte aziende che dicono che bisogna aumentare le esportazioni come elemento di crescita, e questa, se vogliamo, è quasi una banalità, è quello che diciamo da anni e che sosteniamo da sempre che debbano fare tutte le imprese italiane. Dall'altra parte vorrei capire se, a vostro giudizio, e non so se fosse compreso nel set di domande che avete presentato appunto a questi amministratori delegati e leader d'azienda, se questa tendenza verso l'export è una cosa che ritengono strutturale o quanto invece dipenda esattamente dal fatto che il mercato interno italiano è sostanzialmente stagnante o semistagnante. Ma guardando anche i più dati recenti, la domanda interna cresce, quindi c'è una breve termine, una controtendenza. È anche vero che dal nostro campione il 48% del campione è fortemente convinto che la politica di crescita delle aziende è legata all'export. Come dicevo prima, dipende molto dalla capacità poi strutturale del paese, dal punto di vista regolamentare, della facilità delle politiche fiscali, di gestire nuovi corridoi commerciali. E noi in questo, avendo presenza in 160 paesi, vediamo come spesso i corridoi commerciali che si aprono oggi si aprono più a favore di realtà e di geografie più strutturate in termini di promozione verso l'export delle proprie imprese rispetto a quanto abbia fatto fino ad oggi il mercato italiano. La ringrazio, grazie per essere stato con noi, a Carlo Liotti, vicepresidente e direttore generale della divisione pagamenti commerciali, e introduciamo il prossimo di American Express, introduciamo il prossimo argomento con la battuta di Enzo da Varese, che ci arriva via WhatsApp e ci dice: il Milan alla fine lo compra Bolloré. Back. credo che gli interessi di Bolloré vadano un filino oltre il Milan e siano un po' più forti, diciamo così. Però il tema è questo del famoso closing per l'acquisto del Milan, che continua a non arrivare in un calcio che parlavamo prima di internazionalizzazione delle imprese, che non è solamente l'andare all'estero ad esportare, ma è anche il diventare internazionali. Abbiamo visto il caso della Roma, il caso dell'Inter, il Palermo recentissimo, e adesso vediamo questa vicenda del Milan, che però continua a essere, Marco Bellinazzo, il Sole 24 Ore, complicatissima, e continua a tirar fuori puntate su puntate. Beh, l'ennesima sorpresa è arrivata in questa che sembrava a tutti gli effetti la settimana decisiva, con tanto di assemblee. La famosa settimana decisiva, con tanto di assemblee, conferenze stampa già organizzate, voli charter dalla Cina con tanto di giornalisti e delegazioni annunciate. A calare su Milano per porre questa seconda bandiera del dragone sulle squadre di calcio milanesi, e invece a poche ore di fatto dal closing si è scoperto da un lato che quello che in pratica è l'intermediario dell'intera trattativa, cioè Li Yongyong, si ritrova ad essere non solo intermediario ma di fatto l'unico referente di questo fondo, che poi di fatto, poi non so se sarà ancora un fondo, ma quindi una società, veicolo che rileverà il club rossonero, ma soprattutto si viene a scoprire che non ci sono tutti i soldi che dovevano essere versati come terza tranche, 320 milioni, per chiudere i conti, quindi per portare poi al passaggio di proprietà. Perché tutto questo sia avvenuto a tre giorni dalla chiusura ipotetica della trattativa, beh, resta un mistero. Se possiamo fare delle supposizioni legate al fatto che il signor Lee, diciamo, è un broker, un intermediario, non conosciamo ancora esattamente quelle che sono le sue possibilità finanziarie, non è, tanto per intenderci, un gruppo come Suning. Aveva messo insieme una cordata di soggetti finanziari, i quali dovevano acquistare appunto parti di questo fondo, su uno Europe Sports, attraverso vari veicoli, di fatto diventando tutti soci, no, del nuovo club e mettendo risorse. La sensazione è che, a differenza di quanto fatto da tantissime aziende e conglomerati cinesi negli ultimi due anni, che hanno investito quasi 2 miliardi acquistando una quindicina di club in tutta Europa, diciamo, la sensazione appunto è che il signor Lee non goda di buoni uffici a Pechino, e che il fatto che abbia recuperato queste somme da paradisi fiscali e da quindi strutture finanziarie poste fuori dalla Cina, quindi sfuggendo alle più stringenti regole che Pechino ha fissato da qualche mese per tutelare le proprie riserve monetarie, ebbene, abbiano in qualche modo reso ancora meno simpatica al Partito Comunista Cinese la sua operazione, tant'è che si sono sfilate proprio quelle banche, quelle istituzioni a controllo pubblico che erano la vera forza di questa cordata. Allora Marco, io ti interrompo un attimo perché andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ho un paio di domande. La prima è questa: qualche ascoltatore ci scrive, il risultato alla fine sarà che Fininvest si incamera soldi freschi e la squadra non la vende, voglio capire da te quanto è probabile che ciò avvenga. E poi il secondo punto, un breve accenno, perché parlavi di tutti questi acquisti di squadre europee da parte dei gruppi cinesi, c'è questo snodo interessante che è il piano di sviluppo cinese verso il mondo del calcio, che è stato anche proclamato dallo stesso presidente, e che è uno snodo veramente interessante perché è quello che forse potrebbe cambiare il mondo del calcio nei prossimi anni. Una pausa. Focus Economia. Ed eccoli gli ascoltatori. Berlusconi, l'anno prossimo si riprende il Milan ripulito dai debiti e con le casse piene, ci scrive un ascoltatore. Altri appunto ci dicono, ha già celebrato una decina di partite di addio e appunto sì. si incamera i soldi e poi il Milan se lo tiene. Che dici? Che possibilità ci sono a questo punto, Marco, visto come stanno andando le cose, che finisca in questo modo? Beh, lo scenario più probabile alle 18:19, visto che ormai facciamo una sorta di cronaca live di questa trattativa, di queste discussioni che avvengono qui negli uffici legali di Milano, è che si vada effettivamente verso questa proroga, cioè la Finives concederà fino a fine mese per chiudere definitivamente la trattativa, in cambio di cosa? Di un'ulteriore tranche di Qatar, altri 100 milioni a quanto pare, per la Fininvest, che naturalmente è molto irritata per come si è svolta poi la parte finale, anche se lasciami dire, insomma, che magari si sarebbe dovuto, magari, appunto, dicevo, all'inizio proprio di questa trattativa, scegliere un percorso diverso e affidarsi a soggetti diversi. Ma in ogni caso ormai sembrava tutto fatto, e quindi Fininvest, che avrebbe già potuto chiudere, prendersi 200 milioni e salutare il signor Lee, avrebbe deciso appunto invece di accettare un'ulteriore dilazione a fronte di un'ulteriore caparra, e quindi qualora poi non si arrivasse al closing, perché il signor Lee non riuscirà a trovare ulteriori soldi di altri 220 milioni da qui a fine marzo, beh, a quel punto alla fine potrebbe tenersi 300 milioni e magari avviare altre trattative. Quindi diciamo è una dilazione in questo momento molto conveniente da scegliere. Infine, il tema dei cinesi e del loro arrivo sul mercato calcistico in questa maniera possente, non solamente in territorio europeo ma anche in territorio cinese, con uno sviluppo di una serie di scuole calcio, è quello che rischia appunto di cambiare la faccia del mondo del calcio nei prossimi anni. È indubbiamente il nuovo fronte aperto di sviluppo del football, insieme a quello americano, nordamericano per essere più precisi, e è qualcosa, insomma, che ha prodotto dei risultati vistosi. I tifosi se ne sono accorti, sia con gli acquisti milionari di giocatori europei, per quanto poi sia intervenuto il governo per cercare di calmierare un po' queste spese folli, sia con l'acquisto di tanti club in Inghilterra, in Francia, in Spagna, a Milano appunto, per quanto riguarda la sponda Inter. Ed è indubbiamente una novità, perché il presidente Xi ha scelto nell'ambito della sua politica di riposizionamento della Cina sullo scacchiere globale, quello di intraprendere anche una politica di soft power, cioè di accreditamento presso le istituzioni internazionali, basate quindi non soltanto sulle armi o sull'hard power, sul potere militare, ma anche sull'espansione della Cina in ambito sportivo e nell'ambito dell'entertainment, perché un elemento fondamentale di questa campagna, per esempio, è rappresentata dalle iniziative che ha assunto il gruppo Wanda. Ebbene, il gruppo Wanda ha acquistato il 20% dell'Atletico Madrid, ma è diventato sponsor della FIFA fino al 2030, ma ha acquistato anche Infront, e sappiamo quello che Infront rappresenta per quanto riguarda lo snodo dell'intermediazione dei diritti TV. E questo ci fa capire quanto sia e Wanda sta acquistando, per esempio, grandi case cinematografiche americane, costruirà dei parchi a tema, lo sta facendo anche a Parigi, in Francia. Quindi c'è una politica globale che guarda al calcio, dopo aver guardato allo sport negli anni passati, allo sport olimpico, come un elemento centrale di appeasement e di valorizzazione di quella che è la Cina e dell'economia cinese, che dopo 30 anni di crescita galoppante, oggi magari ha più difficoltà, e quindi deve rilanciare anche sui consumi interni, quindi valorizzando quello che è lo sport, il tempo libero, e il calcio è fondamentale in questo scenario. In 30 secondi, Marco, davvero, molti ascoltatori, tantissimi, ci stanno scrivendo: è un modo per Berlusconi di riportare dentro capitali dall'estero? Sarebbe un po' tortuoso, però, Marco. Beh, innanzitutto loro possono dirlo, se lo diciamo noi ci querelano. Ovviamente. Non abbiamo alcuna evidenza contraria che questo possa avvenire, non abbiamo i poteri come giornalisti per indagare. Assolutamente. E io, la mia opinione è che diciamo non ci sia questa strada aperta, che insomma sarebbero trovati altri modi, proprio per dirla così, in maniera semplice. Ma in ogni caso non abbiamo nessuna evidenza contabile né prova documentale che questo possa essere. Spetterà a chi di dovere, perché ricordiamo che qui bisogna fare i controlli antiriciclaggio quando, sì, arrivano questi soldi. E dunque io immagino che i professionisti che stanno seguendo la trattativa questi controlli li abbiano fatti e che poi successivamente Guardia di Finanza e Generale Entrate facciano questi controlli nell'eventualità, naturalmente, appunto, come dicevamo, questo è quello che dite voi, ce lo scrivono molti ascoltatori, sì, che ripetiamo, insomma, ci sembra discretamente improbabile è come il discorso, cosa, guarda, è il discorso più noto, insomma, sì. Me l'avranno detto tutti quelli che mi incontrano, mi dicono che sono soldi di Berlusconi, io non posso dirlo, ne ho, ripeto, abbiamo come giornalisti prove documentali. E di conseguenza è una di quelle, diciamo, visto che viviamo ormai nell'era della post verità, delle fake news, è una, diciamo, di queste di bolle informative che girano e vediamo, insomma, quello che succede. Del resto, insomma, ci divertiremo, i tifosi milanisti si divertono un po' meno, però stiamo ai fatti come sempre. Grazie a Marco Bellinazzo anche per la chiarezza su questo fronte. Noi adesso abbiamo 3 minuti alla fine per parlare di questo bonus da 80 euro da restituire. Allora, anche qua è per stare ai fatti, perché si sono fatti grandi titoloni sui giornali su questa restituzione del bonus degli 80 euro, dunque è bene chiarire come funziona esattamente e perché funziona così il fatto che alcuni dovranno restituire il famoso bonus degli 80 euro. Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, i numeri sono questi: 12 milioni di soggetti che hanno ottenuto il bonus di 80 euro dal datore di lavoro, 966 mila, un milione, facciamola grezza la cosa, hanno dovuto restituire integralmente il bonus, 800 mila hanno dovuto restituire solo una parte del bonus. Perché? Perché evidentemente hanno superato i livelli di reddito che davano diritto al bonus, cioè è un bonus parametrato su livelli di reddito massimo di 26.000 euro. Ricordiamo che dalla soglia da 24.000 a 26.000 euro c'è un decalaggio, quindi non si percepiscono 80 euro in busta paga, ma è leggermente minore l'importo che si percepisce. Evidentemente hanno accumulato più redditi o hanno avuto redditi superiori nel corso dell'anno, e questo ha fatto scattare la restituzione in quanto appunto il loro livello di reddito è stato superiore. Esatto, molto, molto semplicemente, gli sono entrati in busta paga, dopodiché cumulando redditi diversi da altre parti, in sede di dichiarazione qualcuno gli ha detto: guardate, questi sono soldi da restituire, no? Bravissimo Simone, esattamente quello che è avvenuto. Vorrei anche precisare che però a fronte di questo 1.700, 1.800 c'è anche 1.500 che non l'aveva proprio percepito in busta paga e si è visto riconoscere appunto attraverso la dichiarazione dei redditi. Un piccolo caso, no? Che è quello delle golfo delle badanti, che non avendo sostituto imposto, in quanto le famiglie presso cui lavorano non fanno appunto la sostituzione imposto e quindi non erano nei loro confronti il bonus di 80 euro di fatto possono ottenerlo solo attraverso la dichiarazione dei redditi modello 730 o ex modello unico, che quest'anno si chiama redditi. Quindi fammi capire, Giovanni, facendo i conti sempre un po' grezzi, quelli penalizzati sono 300.000 complessivamente, diciamo, facendo le somme, ovviamente i penalizzati per così dire sono 1.800.000, anche se non lo sono effettivamente, però diciamo facendo le somme, chi ha dovuto restituire tra gli italiani, insomma, facendo, no, la differenza tra chi ha avuto e chi ha restituito, sono 300.000 persone. Facendo una differenza grezza, sì, cioè, ovviamente non stiamo parlando degli stessi soggetti, però insomma c'è, cioè, un circa 300.000 contribuenti che sono rimasti penalizzati. Simone, però fammi ricordare una cosa, perché sono casi che conosco da vicino, nel senso, molti l'hanno dovuto restituire, ma magari attraverso il meccanismo compensativo delle detrazioni, dei rimborsi per altre voci, non si sono neanche accorti di creazione dei redditi di averlo dovuto restituire, perché erano magari comunque a credito e quel meccanismo di restituzione magari gli ha ridotto un po' il credito, ma comunque non gli ha dovuto comportare un esborso monetario. È chiaro che è un bonus che è parametrato sul reddito, se il reddito aumenta non ne hai più diritto automaticamente, questo è il discorso. Allora, grazie dunque a Giovanni Parente del Sole 24 Ore, a Filippo Aureggi in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Noi ci risentiamo alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24. Libera la voglia di fare.